pensieri perché non volevo lasciare più nulla qua giù per pensare a lei. Questo è il solo motivo per cui io vorrei stare coi cazzi miei dentro rock che ti dedico. Yeah.